guarda qua fitto giardino, si anda si assicura arancia, non profuma così fine, d'indagare. Tesoro che ne impugna e chi ha girata tutta munna e non l'ha visto come accà vido cuor nostri serene che te guarda lunga andata e te voglio tanto bene.